Ero lì che stavo bene, ero solo con gli amici. E un tratto tu, sì tu, spiegami perché, da quando ho incontrato te, tutto è diverso. Non volevo più restare a pensare alla mia vita. Non volevo, perché è troppo tempo ormai che ho chiuso la ferita. E adesso guardami, se cerco di scappare in vano, mi allontano dalle stelle. E adesso guardami.